Dopo queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberaide, e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Toma detto Didimo, Natanaele di Cana, di Galilea, i figlioli di Zebedeo, e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro, «Io vado a pescare». Ed essi gli dissero, «Anche noi veniamo con te». Uscirono e montarono nella barca, e quella notte non presero nulla. Or, essendo già mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro, «Figliuoli, avete voi del pesce?» Essi gli risposero, «No». Ed egli disse loro, «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono, e non potevano più tirarla in su per il gran numero dei pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, «È il Signore!» E Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse d'un camiciotto perché era nudo e si gettò nel mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa un 200 cubiti, traendo la rete coi pesci. Come dunque furono smontati a terra, videro quivi della brace e del pesce messovi su e del pane. Gesù disse loro, «Portate qua dei pesci che avete presi ora». Simon Pietro quindi montò nella barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro, «Venite a far colazione». E niuno dei discepoli ardiva a domandargli, «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne e prese il pane e lo diede loro, e il pesce similmente. Questa era già la terza volta che Gesù si faceva vedere ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Or come ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, «Simon di Giovanni, m'ami tu più di questi?» Ed egli rispose, «Sì, Signore, tu sai che io t'amo». Gesù gli disse, «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta, «Simon di Giovanni, m'ami tu?» Ed egli rispose, «Sì, Signore, tu sai che io t'amo». Gesù gli disse, «Pastura le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta, «Simon di Giovanni, mi ami tu?» Pietro fu contristato che gli avesse detto per la terza volta, «Mi ami tu?» E gli rispose, «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io t'amo». Gesù gli disse, «Pasci le mie pecore». In verità, ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». Or disse questo per significare con qual morte egli glorificherebbe il Dio. E dopo aver così parlato gli disse, «Seguimi». Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto, «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque vedutolo disse a Gesù, «Signore, e di lui che sarà?» Gesù gli rispose, «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi». Onde che si sparse fra i fratelli la voce che quel discepolo non morrebbe. Gesù però non gli aveva detto che non morrebbe, ma «Se voglio che rimanga finch'io venga, che ti importa?» Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali se si scrivessero ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero.